Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Buongiorno caro ascoltatore di Radio 24, 8, 20 primi precisi qui dagli studi di Milano. Oggi, solo per oggi naturalmente, però oggi è una versione di Attenzione 2 solo con il sottoscritto, vostro umile servitore Oscar Giannino, perché Alessandro Milan non può oggi, ha un'incombenza di fronte alla quale deve per forza non sottrarsi, ma tornerà con noi domani, non vi preoccupate, e tenterò di non farlo rimpiangere. Dunque, in questo giovedì 24 novembre, come al solito, iniziamo con il santo del giorno. Anzi no, io prima del santo del giorno vi dico subito, cari ascoltatori, su quale argomento, se volete, potete intervenire all'800240024 con le vostre telefonate. Lo ricordo naturalmente per gli sms, l'opinione 349 238 6666, perché noi avremo due ospiti per intorno a un tema, ed intorno a questo tema in particolare. Ovviamente potete telefonare anche per su altri argomenti, però intorno a questo tema in particolare vorremmo sapere come la pensate. Cioè, voi state, tema vaccinazioni, voi state con la regione Emilia-Romagna, che insieme ad altre regioni, ma lei ha la testa di questa decisione, dice vaccino obbligatorio per andare all'asilo. Cari genitori, se voi seguite una libera scelta per cui non volete vaccinare i vostri figli, sappiate che agli asili nidi pubblici i vostri figli in Emilia-Romagna, per tutelare il resto della collettività, non vengono ammessi. Oppure seguite la strada che altre regioni come Liguria e Lombardia preferiscono, quella di dire noi rispettiamo la libera scelta delle famiglie, ovviamente dobbiamo condurre delle campagne di informazione precise, scientifiche, sulla base del fatto che al di sotto di soglia di vaccinazione il 95% della collettività, si aprono delle finestre per il ritorno di patologie che erano sconfitte, e infatti è ritornata la difterite in Italia. Purtroppo si continua a morire più che in passato di meningite, in Toscana due morti in pochi giorni, anche se uno di un ceppo virale non infettivo. Ma detto questo, come la pensate? Siete per la libertà di scelta delle famiglie della Liguria e della Lombardia, o siete invece per una tutela pubblica sulla base delle risultanze scientifiche che dica attenzione, perché esponete i vostri figli e i figli degli altri a rischi elevati? Chiamateci all'800240024 per dirvi la vostra. Noi avremo ovviamente ospiti per entrambe le parti. Allora, i santi. Oggi è una giornata particolare. In realtà ce ne sono moltissime che io ricordo assai poco. Ci sono molti giorni in cui ci sono santi collettivi, per così dire, cioè santi collettivi perché proclamati tali dai diversi papi per sottolineare il contributo di sangue di martiri che in alcune parti del mondo, in alcuni paesi, ma in alcune estese aree del mondo, i cristiani hanno pagato nei secoli. E oggi è il caso di 116 santi martiri vietnamiti, perché pensate che tra il XVII e il XIX secolo solo in Vietnam si calcola che ci siano stati 130.000 cristiani cattolici uccisi in diverse persecuzioni. 130.000, ecco. Quindi oggi la giornata è dedicata in particolare a loro, con il calendario liturgico. Tra gli altri santi del giorno, sapete che ce ne sono ogni giorno parecchi: San Crisogono, martire vescovo di Aquileia, e San Protasio, che per chi è milanese o vive a Milano come me è importante. Nazionale di Milano, uno dei primi vescovi, l'ottavo vescovo della città, morto intorno al 356. Cosa è avvenuto oggi nella storia? Se guardiamo retrospettivamente, oggi usciva nel 1859 L'origine della specie di Charles Darwin, quindi il creazionismo prendeva un colpo sotto la linea di galleggiamento rispetto all'evoluzionismo come strumento per interpretare l'evoluzione delle forme di vita nel mondo. Nel 1991 moriva uno dei miei idoli, Freddie Mercury dei Queen. per AIDS, purtroppo. Facciamo gli auguri in chi compie gli anni in questo giorno: Paola Cortellesi, Vanessa Incontrada. Ricordiamo che fa gli anni anche Raffaele Cantone, il capo dell'autorità anticorruzione. E in questo giorno nasceva un mio amico che purtroppo non c'è più, una persona di riferimento, perché nel 1950 oggi nasceva il professor, quello che poi è diventato il professor Marco Biagi, giurista del lavoro, che fu poi ucciso nel 2002, ohimè, dalle Brigate Rosse. Dai giornali di oggi io voglio richiamarvi solo alcune cose che mi hanno particolarmente colpito, perché tra due minuti andiamo al primo ospite e sarà con noi appunto l'assessore dell'Emilia Romagna, sanità, per spiegarci esattamente i termini della scelta che ha fatto questa regione sui vaccini obbligatori. Vi volevo segnalare una storia che tra il serio e il faceto, ma per il protagonista è molto seria, una delle tante cronache a lato della campagna referendaria, per così dire, strana, è fatta di insulti e colpi molto tosti, per così dire. Allora, sul Fatto Quotidiano trovate la storia del country manager di Alitalia in Cina, che viene licenziato quindi con un provvedimento disciplinare perché assente per malattia alla cena con Renzi, ed era effettivamente ricoverato, una cosa che è venuta quest'estate, era effettivamente ricoverato a causa di un'infezione oculare all'ospedale al Beijing United Family Hospital, però l'azienda dice: tu hai toppato esattamente quando non dovevi. Dovevi esserci comunque, perché c'era il presidente del consiglio con le autorità cinesi, e come si dice nella nostra sigla, licenziato! Ecco, quindi solidarietà al country manager di Alitalia. Di Alitalia vedrete che parleremo tra poco, nei prossimi giorni, perché per l'ennesima volta c'è un piano, è fallita per l'ennesima volta il tentativo di rimettere la compagnia su un modello di solidità finanziaria. Si parla di low cost, ma insomma è così ricorrente che ci sarà una riflessione profonda da fare. E detto tutto questo, le prime pagine dei giornali di oggi, ma lo avete già capito sentendo la segna stampa di Giulia, sono dominate dai toni ancora duri e dall'irruzione delle inchieste della magistratura nella campagna referendaria, perché tra firme false, quindi le indagini sui 5 Stelle, Palermo, Bologna, le richieste della commissione dell'antimafia alla procura di Napoli sulle parole del presidente della regione Campania, quelle parole in cui si augurava di vedere andare gli elettori portati dai sindaci PD al voto con le bandiere e a costo di dargli le fritture e di promettergli qualche mezza giornata sugli yacht. Ecco, insomma, le cronache dominano, ispirate a questa singolare, durissima, violenta campagna referendaria. Veramente, secondo me, ulteriore conferma che le misure nella politica italiana non appartiene, ma in generale lo dico oramai, alle parti e alle leadership contrapposte. Io ho anche una particolare amarezza, perché se uno pensa a Falcone, Borsellino e vede l'antimafia ridotta oramai a coltello nella lotta interna del PD, ma ecco, io direi fermatevi se ci riuscite, se poi non ci riuscite vedete un po'. Però quello che è evidente è che, e questo si nota in tutte le aperture e nelle pagine dedicate a questa cronaca di convulsa lotta referendaria, sia nel Corriere della Sera, sia nella Stampa di Torino, sia nel Messaggero in particolare, è un'azione del Quirinale che è cominciata dietro le quinte, preoccupato delle conseguenze dopo voto, se vince o no, ma insomma chiunque vinca. Tant'è vero che insomma il Messaggero è quello che è più esplicito su questo: roadmap di Mattarella con il Premier, questo test non cambia la maggioranza, sono le stesse cose che ha detto Berlusconi, ho sentito il Quirinale, non bisogna pensare che esploda l'Italia. Ecco, si è un po' esagerato secondo me ad appendere l'Italia a delle conseguenze di autodistruzione a seconda di che cosa decideranno gli elettori. Mi sembra un po' irresponsabile. Nel frattempo, nella notte, passa l'emendamento che consente a De Luca, guarda caso, di poter diventare commissario regionale, a lui e a tutti i presidenti delle regioni, di diventare commissario nelle regioni sottoposte al rientro coatto della sanità. Prima non si poteva, ed è un'altra delle misure che De Luca ha chiesto e che ottiene. De Luca naturalmente dice: non l'ho chiesto io, però di fatto è così. Allora, andiamo a questo punto, torniamo alla questione da cui siamo partiti per il vostro, anche per le vostre opinioni, cioè quella come devono comportarsi i capi della sanità pubblica di fronte alla scelta delle famiglie che negli anni iniziano a credere sempre meno alle vaccinazioni. Due modelli contrapposti, il mio va a quello che adesso viene illustrato, conta poco la mia opinione, ma io penso che ci sia molta antiscienza in giro nella propensione delle famiglie italiane a non vaccinare i propri figli. Io i miei vaccini, i miei figli, i piccoli, li vaccino e come, e discuto con i pediatri che hanno altre idee di questo, ma questa è la mia opinione personale. Quindi intanto grazie all'assessore per le politiche della salute dell'Emilia Romagna, Sergio Venturi, che è con noi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Giannino. Allora, perché questa scelta? E in particolare però partiamo spiegando bene la misura che avete adottato, a chi si applica e in che termini. Allora, la misura si applica ai bambini da 0 a 3 anni che decidono attraverso le loro famiglie di frequentare le comunità degli asili nido pubblici e privati della regione Emilia-Romagna. Dall'anno prossimo, quindi avremo tutto quest'anno per spiegare bene alle famiglie e quello che porta questa misura, e soprattutto per formare anche i nostri operatori che devono essere i primi a spiegare la misura e a illustrare il valore che ha questa misura nei confronti della protezione dei più deboli, cioè dei bambini che non si possono vaccinare perché hanno un'immunodepressione o sono malati, magari anche bambini che hanno leucemie, che devono essere i principali attori del provvedimento che noi abbiamo preso, che si rivolge per l'appunto ai più deboli. Non possiamo avere in una comunità che si chiama Nito, che è evocativa di un luogo protetto, in cui i bambini più deboli non possono andare perché ci sono bambini non vaccinati che se li infettano rischiano di avere delle cause, anche letali, perché un bambino con un'immunodepressione se si ammala di una malattia pericolosa può anche lasciarci le penne, purtroppo. Secondo lei, negli anni recenti, le autorità, i vertici del sistema sanitario nazionale possono serenamente dire di avere la coscienza a posto di fronte invece alla presa piede sempre maggiore nel dibattito, nel pubblico, nelle convinzioni popolari, che tutto sommato i vaccini siano non solo ma non più una priorità, ma che invece siano anche espressione, lo abbiamo visto tante volte, di un sistema che tende a travestire di interesse, diritti pubblici, propensione del sistema farmaceutico internazionale a fare profitti, perché lo sa che questa è una delle ragioni che più ricorrono in chi dice siete strumenti delle big pharma. Ma si è fatto tutto il possibile secondo lei per tenere alta la consapevolezza pubblica della necessità delle campagne di vaccinazione? Ma probabilmente in parte si è sottovalutato un fenomeno che lentamente ma progressivamente sta assumendo, ed è per questo che abbiamo agito attraverso una legge, dei toni e delle dimensioni preoccupanti, che sono i bambini che non vengono vaccinati. Noi nella nostra regione abbiamo alcune zone dove ci sono più del 10% dei bambini di quell'età che non sono sottoposti a vaccinazione. Questo perché negli anni si sono diffuse e i social network portano una grande responsabilità a tutta una serie di leggende che sono improvvisamente diventate delle verità inconfutabili, tipo le correlazioni con l'autismo, che sono assolutamente indimostrate e false, perché chi le sosteneva era un medico che poi è stato radiato in Inghilterra dal suo ordine. E mi faccia dire anche che rispetto al tema della obbligatorietà in questo paese, lei lo ricorderà perché penso di avere più o meno la sua età, quando noi avevamo l'età dei bambini sui quali andiamo ad agire, i nostri genitori ci portavano con entusiasmo a farsi vaccinare, perché erano malattie che non avevano nessuna cura e si potevano prevenire e debellare soltanto con i vaccini. Non c'erano minimamente queste cose che circolavano, e lo dimostra anche il fatto che oggi in assoluto la quota di popolazione che si vaccina di più sono gli extracomunitari, perché le vedono quotidianamente, esatto. Le hanno viste quotidianamente nei paesi da cui provengono. e quindi probabilmente io sono quasi certo, anche perché questa idea che è nata in Emilia-Romagna in realtà poi è nata da un confronto anche con alcuni nostri parlamentari, cioè noi agiamo oggi in un settore che non è la scuola dell'obbligo, perché lei sa che c'è questa, certo, questo dibattito filosofico sul fatto che prevalga il diritto allo studio, il diritto alla salute, e quindi 20 anni fa improvvisamente ci fu una circolare che disse vabbè, se i bambini non si vaccinano però frequentano, possono lo stesso frequentare la scuola. Le malattie erano finite, la polio, l'ultimo caso di polio era in Italia del 1982, e quindi abbiamo detto è finito tutto. In realtà globalizzazione, il fatto che comunque il virus continua a circolare, hanno sostanzialmente riproposto un problema anche serio, perché noi abbiamo nei nostri ospedali, senza che nessuno ne parli, anche nei grandi ospedali, epidemie di morbillo, epidemie di pertosse, che l'anno scorso a Bologna hanno fatto anche un decesso, una bambina di pochi mesi. Allora, non è l'ultima cosa che volevo dire su Big Pharma. Noi in Italia spendiamo più di 20 miliardi di euro all'anno in farmaci. I vaccini, tutti i vaccini e tutto il nuovo piano vaccinale insieme costa 300 milioni di euro. Sì, appunto. Quindi è una sciocchezza, costa molto di più curare un bambino che si ammala di una malattia infettiva in ospedale, in una rianimazione. E anche in quel caso mi dispiace ricordarlo, non è che i farmaci li fabbrica Gesù Bambino, quelli per la cura. Quindi... Esattamente. Esatto. Piuttosto che vaccinare, che costa invece qualche decina di euro se si è al servizio sanitario. Comunque, grazie all'assessore Sergio Venturi alle politiche per la sanità dell'Emilia Romagna, ha spiegato in maniera precisa e devo dire senza alcuna demonizzazione di chi la pensa diversamente da noi, mi metto nel gruppo, anche se purtroppo ci sono delle evidenze concrete a favore del fatto che aver abbassato la guardia è un errore. Se noi andiamo a vedere la popolazione vaccinata, per esempio, contro il meningococco C nel 2015, cioè uno degli agenti patogeni responsabili della meningite, per cui si torna a morire in numeri elevati in Italia, in alcune regioni d'Italia, e vediamo che ci sono regioni e dove bisognerebbe il tasso di sicurezza, per così dire, dovrebbe essere quello del 95% medio, questo vale più o meno per tutti le malattie di questo genere. Ebbene, nel Lazio oramai la percentuale dei vaccinati contro il meningococco C è del 68%, per essere chiari. In Campania non raggiunge il 50%, in Calabria siamo al 67%. In Sicilia siamo al 60%, ma anche nella provincia autonoma di Trento siamo all'83%, mentre a Bolzano scendiamo addirittura al 63%. Allora, io rispetto le vostre opinioni se siete convinti che vivere in coerenza alla natura e quindi senza vaccini sia meglio, ma non è così. E a questo punto ci sentiamo tra un minuto e torniamo invece a esaminare la questione da parte di chi ha un'opinione diversa. 24 mattino, attenti a noi due. Eccoci qua, tornati in diretta, e tra le tante faccio solo poche segnalazioni di articoli così che mi hanno colpito e che vi segnalo nel caso in cui voleste divagare rispetto ai grandi giornali e ai temi che tutti più o meno riprendono. Sapete che la gerarchia delle notizie dei giornali nazionali spesso è molto uguale, quindi oggi tra la vicenda di Luca Bindi, l'antimafia e le indagini sui 5 Stelle che vi ho ricordato e le preoccupazioni del Quirinale sono quelli un po' i tre toni fondamentali delle cronache in vista del referendum, ma ci sono anche poi alcune curiosità. Vi ho ricordato quella del country manager all'Italia licenziato perché ha toppato, in quanto malato e regolarmente ricoverato, la cena con Renzi in Cina quest'estate, e sul quotidiano diretto da Maurizio Belpietro un altro sapido ma pesantissimo articolo di polemica, questa volta riservata all'entourage di Renzi sulla SIAE. La SIAE, sapete, è la società che gestisce il monopolio dei diritti d'autore. Io sono contrario a tutti i monopoli, anche a quello della SIAE. Ho ospitato in trasmissioni romanzieri e uomini e donne della della canzone che non demandano la raccolta dei propri diritti alla SIAE, ma invece il governo difende molto la SIAE e sulla verità trovate un'interpretazione malevola, però divertente da leggere, del perché. Perché, titolo, il giglio magico all'arrembaggio della SIAE, infornata di assunzioni dopo la strenua difesa del monopolio sui diritti d'autore, la moglie del ministro Franceschini reclutata in una società che gestisce i fondi immobiliari dell'ente, ci sono anche la sorella del sindaco di Firenze e tanti amici dirigenti. Naturalmente io non ho detto che sposi integralmente quello che c'è scritto, dico che a volte rispetto alla noia delle solite cose politiche contrapposte i giornali minori scavano più a fondo su vicende che tuttavia consentitemi cari ascoltatori di non liquidare con una risata e una tirata su di spalle, perché in effetti ci sarebbe molto da dire su incarichi come questi che ruotano intorno a parenti, mogli eccetera eccetera. Detto tutto questo, abbiamo sentito prima il l'assessore responsabile della sanità per Emilia Romagna che ci ha spiegato perché vaccino obbligatorio per andare all'asilo. Ci sono altre regioni che invece naturalmente pur condividendo le scelte del fare da parte del Servizio Sanitario Nazionale tutto ciò che è necessario perché patologie pericolosissime non tornino ad affacciarsi nel nostro paese mettendo vittime, come purtroppo è avvenuto, ecco, e sta avvenendo, però hanno una filosofia diversa e danno un diverso peso alla valutazione e alle libere scelte dei cittadini. Tra queste appunto vi è la Liguria ed è collegato con noi, io molto ringrazio di questo anche perché erano ore con un'allerta meteo, quindi chiedo innanzitutto al Presidente di dirci come stanno le cose, però il Presidente della Regione Liguria che è tra queste regioni e di questa posizione, Giovanni Toti, grazie di essere con noi, buongiorno. Buongiorno a voi, per il momento va abbastanza bene, diciamo l'allerta meteo, su questo mi sembra possiamo che possiamo rassicurare. Sì, nei limiti del fatto che è sempre un'allerta importante. Ma diciamo, perché voi, lei e voi, i suoi colleghi in giunta, eccetera, non condividete il secco, no, care famiglie, se voi non vaccinate i figli, niente asili nido? No, ma noi sul vaccino siamo assolutamente convinti che sia una campagna, e la stiamo facendo, assolutamente seria, e che la vaccinazione dei bimbi sia una cosa assolutamente importante. Renderla obbligatoria rientra in quelle intromissioni, come possiamo dire, del pubblico all'interno delle questioni di famiglia, che secondo noi sembra come dire, invasiva, intrusiva, limitativa delle scelte della persona libera, ecco, e quindi i genitori su questo devono vaccinare i figli, deve essere molto chiaro questa roba qua. La cosa che vogliamo evitare è che sia un'imposizione di legge, ma deve essere, come si dice, una convinzione culturale, una convinzione importante su cui stiamo investendo in termini di comunicazione, quindi deve essere molto chiaro. Tutta la campagna che c'è stata in queste settimane e nei mesi precedenti circa l'inutilità o addirittura la dannosità della vaccinazione, ritengo che sia una cosa scriteriata e assolutamente, come dire, nociva. Dopodiché le strutture mediche della Regione Liguria, ma d'accordo con la Regione Lombardia, ieri questa notizia è uscita mentre eravamo in un vertice bilaterale su cui abbiamo discusso molte cose con la Regione Lombardia, riteniamo che non si debba, come dire, obbligare per legge, ma si debba convincere con una campagna adeguata tutte le famiglie alle corrette vaccinazioni dei bambini. Ecco, tutto è una questione, come dire, di pensiero liberale, possiamo dire. Di pensiero liberale rispetto all'intrusività dello Stato paternalista, ecco, per essere chiaro. Però senza dimenticare che chi ha la testa di un servizio pubblico deve mettere davanti l'interesse della tutela della collettività e della salute. Cioè, ma non c'è dubbio, infatti bisogna spiegare esattamente alle famiglie e ai genitori che vaccinare un figlio è una cosa assolutamente dovuta, che non crea nessuna controindicazione come taluno ha voluto far credere, e quindi c'è bisogno che ci sia facilità d'accesso a questo tipo di vaccinazione e assoluta informazione per le persone circa i benefici che questo porta. Dopodiché l'ultima scelta, in fondo, io ritengo che debba aspettare le famiglie. Senta, io ne approfitto per avere con noi, però per fare anche un'altra domanda, per così dire. E la domanda è questa, non come la pensa sul voto referendario, perché dopo è abbastanza per scontato. Mi sembra abbastanza noto. Appunto, è notissimo. Mi interessa comunque per una cosa. Comunque no. Ecco, chiariamo i dubbi di chi avesse dubbi. La domanda è questa. In un organo come la conferenza Stato-Regione, voi, i presidenti di Regione, visto che questa è una scelta referendaria politica che è incentrata moltissimo nel ridisegno dei rapporti, nell'integratura dei rapporti tra regioni, più regioni che il resto dell'autonomia, ma soprattutto quindi regioni e Stato centrale. Ecco, tra voi, al di là delle differenze politiche, mettete anche poi in campo delle strategie da perseguire in caso di vittoria dell'uno e dell'altro, comunque per minimizzare i danni, cioè perché la voce poi delle regioni e delle autonomie sia comunque tutelata, perché poi spesso, al di là di tutto, tra presidenti di regioni, al di là del colore politico, è ovvio che conta questo interesse comune. Oppure non ve ne occupate e andate avanti come se non ci fosse il referendum? No, la conferenza delle regioni non si è occupata formalmente del tema del referendum, né ha intenzione di farlo, perché si tratta di un tema su cui scelgono i cittadini, e quindi la conferenza delle regioni, anche perché non avrebbe una posizione univoca in proposito. Dopodiché, personalmente, ritengo che questa riforma ci faccia fare un passo indietro. Ci faccio fare un passo indietro perché, come dire, pur comprensibili le ragioni che spingono il governo ad accentrare una serie di funzioni, come il governo sostiene, per una migliore allocazione più razionale delle risorse rispetto ai piani strategici nazionali, bisogna rilevare il fatto che questo si scontra con la valorizzazione delle autonomie locali prevista dalla nostra Costituzione, ma purtroppo con tutta la storia repubblicana, in cui quando si è deciso a Roma, senza confrontarsi con le istituzioni locali, con le comunità locali, con le famiglie e le imprese del territorio, non sempre le scelte sono state dettate da razionalità e corretta allocazione delle risorse, pure poche che ci sono, dello Stato, ma è stata fatta dalla politica secondo criteri assolutamente irrazionali rispetto alla necessità del paese, ma razionali rispetto alla potenza del politico di turno che decideva. Allora, il bilanciamento che è nato in questi 25-30 anni di valorizzazione delle autonomie locali, ovvero la possibilità delle persone e dei territori di esprimere il proprio parere attraverso i poteri che abbiamo demandato via via ai comuni e alle regioni, io credo che sia un modo per garantire voce in capitolo a tante esigenze locali che altrimenti verrebbero, come dire, sopraffatte da decisioni prese a Roma e non sulla base, purtroppo, di una corretta distribuzione delle risorse secondo le necessità del paese, ma più semplicemente a seconda della potenza del politico di turno che decide dove mettere i soldi, insomma. Allora, io ringrazio intanto il presidente della Regione Liguria Toti di essere stato con noi in questi minuti. Ricordo ai nostri ascoltatori che intervento come questo, noi siamo sottoposti a un programma settimanale di verifica da parte della GCOM dei tempi della par condicio. Ricordate che abbiamo cominciato la settimana con una lunga intervista al presidente del Consiglio, ovviamente per il sì. Dobbiamo riequilibrare. Non vi sfugga che abbiamo la pistola alla tempia tutti i giorni noi sui tempi su cui invitiamo, quindi non vi preoccupate, perché altrimenti l'azienda ci impicca perché arrivano le sanzioni. Lo dico perché pensate, per ogni ospite non c'è l'interlocutore, no, c'è un bilanciamento settimanale e mensile, e vi assicuro che questa volta l'autorità, secondo me spinta anche dal governo, c'ha la pistola alla tempia. Noi riceviamo le mail preoccupate tutti i giorni, quindi ve lo dico implorandovi di credere che non stiamo gestendo in maniera asimmetrica, unilaterale, gli ospiti e il peso di questa legge del che però esiste e dobbiamo rispettare, come è evidente. Allora, detto tutto questo, la sanità però è un tema che rientra nel referendum, perché sia pur le materie su cui c'è il riaccentramento con il referendum a favore dello Stato verso le regioni sono altre, cioè sono le grandi infrastrutture di trasporto, quelle energetiche, le telecomunicazioni e così via, però voi sapete che con la clausola di supremazia lo Stato, i governi possono comunque intervenire anche in materia che restano di competenza regionale, e l'esempio della sanità viene fatto sistematicamente. Ci sono polemiche su alcuni quotidiani oggi, per esempio sul fatto che la Boschi ospite Appoliti sia stato il ministro Boschi ospite di servizi in cui venivano intervistati malati di cancro, e lei commentasse dicendo: ecco, con il sì lo Stato darà direttive comuni alle regioni. Per chi vive in regioni con un sistema regionale più efficiente e ispirato a criteri diversi da quello dei sistemi prevalenti di altre regioni come la Lombardia, è motivo di preoccupazione, perché verranno smontarci questo sistema, che pure ha i suoi difetti, anche Lombardia, troppa politica, troppo CL, sono stato il primo a dirlo, però un'efficienza e un'importanza del privato che altrove non c'è. Eppure si fa campagna elettorale anche con i malati di cancro, proprio sulla sanità. Allora, sentiamo rapidamente alcuni di voi però come la pensano su questa questione su cui vi abbiamo chiesto di intervenire. Cominciamo con Francesca che ci chiama da Modena. Francesca, prego. Buongiorno signor Oscar, sono Francesca. Io sono all'ottavo mese di gravidanza e ho Grazie. Ho partecipato lo scorso mese a degli incontri organizzati dal consultorio sul tema della vaccinazione. Sì. E naturalmente ci sono andata con una certa apertura, ma anche un po' di criticità, sì, insomma. E i dubbi li ha superati oppure no? No, i dubbi non li ho superati perché ho trovato dagli operatori un po' di come dire, ignoranza e superficialità. Ah, aia, questo grazie di segnalarcelo, non è la prima né l'unica a segnalarcelo e questo mi preoccupa molto purtroppo. Massimiliano da Roma in sintesi ci diceva che ha preso la telefonata, gli unici che non fanno vaccinare sono quelli che credono a Padre Pio, non solo gli unici, solo questi a dire la verità, sono tanti altri, grazie a Marco Lamorgia e tanti altri per cui non c'è il tempo, sono andato un po' lungo, comunque domani c'è di nuovo Alessandro Mina, continuate con Radio 24, appuntamento come alle 4:30 con la versione di Oscar.